America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. We have just gotten some paper that has landed in our laps today, being the eve of the testimony from now fired FBI Director James Comey, in which he details multiple briefings, multiple events. Beh, avete sentito il newscast, l'attesa è alle stelle in America per l'audizione dell'ex direttore dell'FBI James Comey di fronte alla Commissione Intelligence del Senato. Ecco, qualcosa di interessante è successo ieri perché la Commissione ha già diramato la documentazione scritta, 7 pagine che Comey leggerà oggi, nelle quali racconterà le sue interazioni col presidente e racconterà delle pressioni a cui è stato sottoposto almeno in 2 occasioni. Annunciare che il presidente non era sotto inchiesta, cosa che Comey in effetti aveva comunicato a Trump in forma confidenziale, e fare un passo indietro nell'inchiesta contro Michael Flynn, fedelissimo di Trump, capo del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, probabilmente molto coinvolto sul caso Russiagate. Ecco, la parte importante sarà le domande e le risposte a questo punto. Ci saranno elementi sufficienti per mettere in difficoltà Trump sul piano giuridico? Non credo. Però, insomma, dobbiamo aspettare l'audizione di domani. Nel frattempo vi lascio con una storia molto particolare. Io dal momento in cui mi sono fatto male ho capito che non sarei più tornato in Italia. Cioè, qui mi rendo conto che ho la fortuna di vivere una vita quasi normale. Cioè, io tutti i giorni prendo il mio treno, la mia macchina, vado in città, lavoro, torno a casa la sera e la gente non mi guarda come un disabile, mi guarda come uno che fa il commuter, che va a lavorare in città e torna a casa la sera. Beh, avete sentito, questo signore si chiama Luigi Girotto e devo dire ha preso anche lui un biglietto di sola andata in un modo o nell'altro, ma dà un messaggio molto forte. Il messaggio è che in America il trattamento dei disabili, la cura con cui ci si occupa dei disabili è molto più profonda, determinata, accurata di quello che succede da noi in Italia. E dunque questo è un problema non da poco, e c'è una storia, devo dire, fantastica, interessante, che riguarda un disabile italiano che si chiama Andrea Stella, il quale, pensate, sta portando la bandiera per migliorare le condizioni dei disabili sull'oceano Atlantico. Andrea andrà attraverso l'Atlantico su un catamarano che si chiama Wow, cioè Wheels on Waves, ruote sulle onde, per portare sull'Atlantico la bandiera dei disabili. E la sta portando questa bandiera per sensibilizzare un po' tutta l'opinione pubblica. E pensate, ha già sensibilizzato il segretario generale delle Nazioni Unite. Sentiamo. Keep the fight. Ecco, avete sentito il segretario generale delle Nazioni Unite che dà un messaggio a Andrea Stella, gli consegna la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e voi direte, ma come la porta questa bandiera sull'Atlantico questo signore che è paralizzato alle gambe? La porta su una barca, perché c'è una storia straordinaria nella storia, e cioè del ruolo che può avere una barca, come una barca che in teoria, ma dice, molto complicata per un disabile, invece può essere attrezzata sempre che ci sia la buona volontà, perché diventi assolutamente friendly, amichevole, come si dice negli Stati Uniti. Bene, io ho una sorpresa per voi, perché qui con me in studio a New York, ai microfoni di America 24, c'è proprio Andrea Stella. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. Allora Andrea, beh, intanto complimenti, perché tu stai facendo un'operazione straordinaria che parte da una tua situazione comunque non facile. Se non sbaglio arriverai addirittura a consegnare questa carta poi al Papa. Sì, vogliamo fare questo grande viaggio e portare la carta che ci ha consegnato il segretario generale Gutierrez, e questo grazie agli sforzi dell'ambasciata italiana e dell'ambasciata di San Marino, che sono tra i primi firmatari di questa carta. Lo consegneremo dopo circa 7.000 miglia nautiche nelle mani del Santo Padre a Roma. Facciamo un passo indietro. Raccontaci la tua storia, cioè come sei diventato disabile? Mi sono laureato, era agosto del 2000, ho fatto un colloquio in uno studio di diritto legale e volevo andare in vacanza, era il mio premio, dovevo andare a Kathmandu, ma poi questo studio mi ha convinto a dire vai a Miami dove ripassi l'inglese e lo spagnolo, e io così ho fatto. Se non che una sera in una strada privata, vigilata e apparentemente molto tranquilla, tornavo all'auto affittato, ho visto 4 persone con il passamontagna, uno non mi ha detto nulla, ma ha sparato e mi ha preso fegato, polmone e colonna vertebrale. A quel punto poi, dopo circa 50 giorni trascorsi in un ospedale americano, sono tornato in Italia e ho cominciato un percorso riabilitativo nell'ospedale di Vicenza. Ecco, e lì a un certo punto parte la storia della barca. Come nasce? La barca nasce in un momento di grande sconforto. Io francamente volevo ammazzarmi, mi dicevano potrei far questo in carrozzina, potrei far quell'altro. Io rifiutavo francamente tutto. E mio padre in questa cosa mi dice: perché non torni alle cose che facevi? Perché non torni in barca a vela? Io gli dissi: papà, o torno in barca muovendomi sulle ruote come prima mi muovevo sulle gambe, se no mi sembra più lo sforzo che il piacere. E abbiamo cercato una barca da noleggiare, così fatta non c'era, e quindi l'abbiamo costruita. E l'avete costruita in che modo? Quali erano le sfide da superare? Le sfide da superare, innanzitutto la stabilità, quindi abbiamo scelto un catamarano perché è un mezzo che su due scafi non si inclina lateralmente, quindi permette un ottimo movimento con la sedia a rotelle. Sul lago di Como ad Ervio, un cantiere che si chiama Mattia e Cecco ha seguito il progetto, ha sposato il progetto, e la conclusione è stata che la barca che normalmente lui costruiva, lunga uguale e larga uguale, era addirittura meno funzionale, meno bella per chi la carrozzina non la usa ma corre sulle proprie gambe. Per cui la domanda spontanea è: molte cose si potrebbero fare uniche, e se va bene una persona in sedia a rotelle potrebbe andare meglio a tutti quanti. Tu hai fatto di questa tua sfida anche una missione per gli altri, per i disabili. C'è un problema per i disabili in Italia, ritornando a quello che dicevamo all'inizio della trasmissione? Certo, io ho già attraversato l'oceano due volte, sempre dall'Europa verso l'America, e dico sempre: è più facile per una persona con disabilità attraversare l'oceano in barca a vela che attraversare Milano, Roma, Vicenza, dove io vivo, con un autobus. Per cui usiamo la barca come paradosso: se si possono fare cose difficili, si deve poter vivere una vita normale nella quotidianità di tutti i giorni. Come ti immagini l'incontro col Papa, e che cosa gli dirai, e il modo in cui tu sarai accolto per questa missione per persone che hanno tutto il diritto di vivere una vita normale, che purtroppo la società, soprattutto in Italia, magari non aiuta? Sicuramente il Papa, poi questo Papa è una figura molto forte, quindi io spero che riesca a dare il massimo risalto e visibilità a questa carta che dice che la non discriminazione è un diritto molto importante, che tutti noi con il nostro comportamento possiamo permettere a una persona che ha dei problemi di vista o che ha dei problemi di mobilità di essere integrato nella società. La carta ha anche un grosso valore giuridico in un paese come l'Italia, dove la giustizia non è sempre così semplice, e quindi l'incontro con il Santo Padre sarà sicuramente personalmente molto emozionante, ma spero possa rappresentare per le associazioni di persone disabili, per le persone e per tutti quelli che hanno a cuore i diritti di tutti, un momento importante, un momento decisivo. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.